Sezione 1 di Nuove Odi Barbare di Giosuè Carducci. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Marzia Marianera. La lirica. Dalle Odi di August von Platen. Prefazione. Musa latina, vieni meco a canzone novella. Può nuova progenie il canto novello fare. Tommaso Campanella. La lirica. Dalle Odi di August von Platen. Alla materia l'anima s'appiglia, polso del mondo è sempre il fatto. A sorde orecchie suona, inutil flauto, l'alta lirica musa. Come di Omero e istoriati spiega, gli arazzi dalla favola alle genti, facile trae l'autor del dramma il volgo su per le scene. Ma il vol del sacro Pindaro, di flacco l'arte e il pensoso verbo tuo, Petrarca, lento nei cuori imprimesi ed a molti resta un arcano. Non grazia e spirito allor fu la romanza che alle telette delle dame aleggia, volubil guardo non passò le loro alme possenti. Eterno per le umane orecchie il nome vaga, ma raro s'accompagna ad essi amico spirito che la forte onori malinconia. Fine della sezione 1. Registrazione di Marzia Marianera.